L'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia, benvenuti all'Altra Europa. Come ogni settimana siamo qui per raccontare la nostra Unione Europea da tanti punti di vista diversi, un programma in collaborazione con Euronet Plus, network di radio europee. Ci trovate qui a Radio 24, ma anche sul sito euronetplus.eu e sulle nostre piazze virtuali, Euronet Plus R24, oppure Federico Taddia sui nostri account, sui social network, su Facebook e su Twitter. Ogni settimana un viaggio, oggi partiamo dal cuore della nostra Unione Europea, dal Parlamento Europeo. I started thinking about that, and I used to think that the Taliban would come and he would just kill me. But then I said, if he comes, what would you do, Malala? Then I would reply myself that, Malala, just take a shoe and hit him. But then I said, if you hit a Talib with your shoe, then there would be no difference between you and the Talib. You must not treat others that much with cruelty and that much harshness. La voce che state ascoltando è quella di Malala Yousafzai, la ragazza pakistana che a 15 anni è stata ferita da un colpo di pistola alla testa dai talebani. Lei che ha lottato così giovanissima per il diritto allo studio. Era candidata al premio Nobel per la pace, premio Nobel che invece è andata, come avete saputo, all'OPAC, l'organizzazione anti-armi chimiche, ma proprio Malala ha vinto ed è stato annunciato un paio di giorni fa dal presidente del Parlamento europeo Martin Schulz il premio Sakharov per la libertà di pensiero dal nome dello scienziato e dissidente sovietico, un premio istituito nel dicembre del 1988 per onorare le persone o le organizzazioni che dedicano e hanno dedicato la loro vita alla difesa dei diritti umani. Per capire chi è Malala abbiamo invitato Viviana Mazza, che è autrice del libro Storia di Malala. Lei è una giornalista del Corriere della Sera. Ciao Viviana, buon sabato. Buon sabato anche a voi. Tu hai raccontato la storia in questo bel libro per ragazzi, ma un libro di bella lettura anche per gli adulti, la storia di Malala. Chi è e perché? Cosa rappresenta oggi? Perché questo premio? Grazie. Malala l'ho raccontata ai ragazzi perché, appunto, secondo me è una ragazzina di 12 anni, di 11 anni all'inizio, di 15 anni nel momento in cui viene ferita, ma di 11 anni quando comincia la sua battaglia per l'istruzione. È un personaggio così forte, così importante da raccontare proprio ai ragazzi di quell'età, che soprattutto da noi danno il diritto allo studio come una cosa scontata. Invece per Malala non era per niente scontato, perché a 11 anni si è vista negare questo diritto, perché nella valle di Swat, nel nord del Pakistan, dove viveva con la sua famiglia, i talebani avevano proibito a tutte le ragazze di andare a scuola. I ragazzi potevano andarci, le ragazze no. E nel momento in cui l'estremismo ha dominato, anche se la popolazione non era d'accordo con questo, Malala ha cominciato a scrivere un blog per il sito della BBC, lo ha scritto in Urdu, e in questo blog raccontava la sua vita di adolescente costretta a stare chiusa in casa perché non poteva andare a scuola, perché le donne non potevano neanche andare al mercato, e questo blog lo scriveva sotto pseudonimo, sì. Ma col tempo è stata identificata, perché c'è stato un documentario del New York Times in cui si vedeva il suo volto e si conosceva il suo nome, e dopo la vittoria, anche se fragile, contro l'estremismo nella valle nel 2009, Malala era stata intervistata, era diventata un po' una celebrità all'interno del Pakistan come attivista per i diritti dei ragazzi all'istruzione. Quindi già prima dell'attentato Malala era un personaggio noto, ed è proprio per questo che è diventato un bersaglio. Che il premio Sakharov per lei significa considerare l'istruzione come un antidoto all'estremismo. Martin Schulz, nell'assegnare questo premio, ha detto che ieri 11 ottobre ricorreva la giornata internazionale del bambino e della ragazza, e quindi voleva ricordare che circa 200 250 milioni di ragazze nel mondo non possono recarsi liberamente a scuola. L'esempio di Malala ci ricorda i nostri doveri e la responsabilità anche e soprattutto della politica per il diritto all'istruzione dei bambini. Viviana, tu ci sei rimasta male per il mancato Nobel? Devo dire che un po' forse me l'aspettavo, perché il Nobel è sempre, diciamo, spesso ci sono state decisioni controverse, decisioni diciamo inaspettate. Di certo la marcia di Malala verso il Nobel sembrava quasi inesorabile, appunto dopo il Sakharov, come hai detto tu, e dopo una serie di premi come quello della Clinton Initiative, dopo il premio di Harvard, dopo il premio di Amnesty, per cui appunto era la favorita. Secondo me Malala ha già vinto, nel senso che quello che ha conquistato anche dal punto di vista umano, anche dal punto di vista di solidarietà internazionale, nessuno potrà toglierglielo, scusate. Una delle cose interessanti che ho sentito oggi, tra chi magari si era deluso, ma allo stesso tempo notava che ci saranno molti anni davanti a lei, e lei vuole diventare premier, e una delle cose più belle che ha detto recentemente Malala è che lei non vuole essere ricordata come la ragazzina che è sopravvissuta all'attentato dei talebani, vuole essere ricordata come la ragazzina che ha lottato per l'istruzione. Se diventerà premier, come lei si augura, e qualunque diciamo attività continui con la sua fondazione che ha creato, sicuramente questa sarà una battaglia che Malala non mollerà e che continuerà a condurre. Forse un giorno vincerà il Nobel. Grazie a Viviana Amast, ricordiamo Storia di Malala Mondadori, la storia raccontata in maniera quasi poetica, è una fotografia molto reale, una storia veramente raccontata a misura di tutti. Quindi complimenti davvero, Viviana, per quello che ci hai messo in quelle righe, in quelle pagine. Grazie davvero. Ciao. Grazie. Buon sabato. Adesso un Europost-it, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua con l'altra Europa. Europost-it. Il prossimo sabato deve essere senza incidenti. La Notte Europea Senza Incidenti è una campagna di sensibilizzazione organizzata tutti gli anni nei locali notturni di tutta Europa il terzo sabato di ottobre. Il 19 ottobre, nei locali che aderiscono all'iniziativa, ci saranno dei volontari con cui potrete scegliere un autista designato, che dovrà impegnarsi a non bere e che riceverà un braccialetto di riconoscimento da tenere per la serata. All'uscita dal locale potrà mettersi alla prova con un test e, se avrà rispettato la promessa, riceverà dei piccoli regali. In caso contrario, lascerà guidare un amico più sobrio di lui, ma non sarà più l'eroe della serata. Se volete saperne di più o volete organizzare anche voi un'iniziativa per la notte, andate sul sito europeannightwithoutaccident.eu. L'altra Europa. Il prossimo ospite ci porta immediatamente a quello che è successo, a quello che sta succedendo a Lampedusa, la tragedia, una tragedia che è stata una tragedia di un'isola, di una nazione, ma una tragedia che l'Europa ha preso sulle sue spalle. L'Europa si è mossa, almeno formalmente, per capire, per cercare soluzioni che non possono essere solo soluzioni nazionali, ma sono sicuramente soluzioni europee. Mi ha scritto su Facebook, si chiama Emiliano Fatello, nella vita è assistente locale per un eurodeputato, quindi mastica questioni europee, però a livello personale, insieme a un amico, quando ha visto quello che stava accadendo, ha deciso che non bisognava stare con le mani in mano, ma qualcosa si poteva fare, qualcosa si doveva fare, si dovevano muovere opinioni, si doveva bussare alla porta, si doveva arrivare là, nel cuore del palazzo. Diamo il benvenuto a Emiliano Fatello. Ciao Emiliano. Ciao Federico e buon sabato a tutti. Tu hai preso consapevolezza, hai voluto passare all'azione e hai usato uno strumento che è quello della petizione. Ci spieghi cosa avete fatto? Sì, noi praticamente la mattina di quella tragica mattina abbiamo preso la rabbia che cresceva di minuto in minuto mentre vedevamo quello che stava accadendo. Abbiamo cercato di controllarla insieme a Gabriele Moccia, l'altro mio amico con cui abbiamo costruito questa petizione, e abbiamo cercato di trasformare la rabbia in un senso istituzionale, cioè eravamo coscienti e siamo coscienti, insomma, noi che siamo del settore, diciamo, come hai annunciato, che ci sono degli strumenti a disposizione dei cittadini per segnalare, insomma, incidenti, problemi, denunce, eccetera, e si chiama appunto la petizione europea. Noi abbiamo voluto un far altro che sfruttare i nostri diritti da cittadini europei e segnalare questo problema. Come abbiamo scritto alla Commissione PETI del Parlamento europeo, indicando secondo noi quello che bisognava fare. Ne abbiamo sentite molte questi giorni, abbiamo sentito anche molte critiche sull'Europa, è anche un po' un paradosso, perché poi effettivamente la competenza comunitaria è degli Stati membri e paradossalmente questa critica arrivavano proprio da loro, però effettivamente bisogna rendersi conto che quello che è stato creato fino ad oggi, Frontex ad esempio, l'agenzia europea per la cooperazione internazionale delle frontiere esterne, e come la CEAS, il sistema comune europeo di asilo, sì, è vero che hanno funzionato, adesso tra l'altro non so se lo sapete, nascerà anche Eurosur che servirà per il monitoraggio, però queste portano sempre molti numeri, sembra che tutto funzioni con il controllo della Caterina Ashton, no? L'altro rappresentante della politica estera europea, però poi fondamentalmente il Mediterraneo è un cimitero. Allora noi abbiamo pensato che forse bisogna ragionare ancora un poco più in senso europeo, cioè più dal basso. Infatti la nostra proposta è quella di fare un vero regolamento europeo sui migranti, sulla base con un tavolo urgente per la cooperazione e la migrazione del Mediterraneo, ma fatto composto da rappresentanti della Commissione e del Parlamento europeo, quindi sia l'istituzione degli Stati e sia l'istituzione più vicino ai cittadini, eletto dai cittadini, certo, dagli Stati membri, quindi non ci sarà sicuramente un problema, no, dove sempre passa che le cose cadano dall'alto, dall'Europa, dagli Stati della sponda sud del Mediterraneo, questo è importante perché non bisogna fargli subire delle decisioni, e poi anche le organizzazioni non governative coinvolte sicuramente nell'accoglienza ai migranti che stanno patendo questa situazione, e poi al mondo dell'associazionismo laico, religioso, insomma quello che noi vogliamo fare è un protagonismo più dal basso, perché quello che noi pensiamo è che bisogna avere addirittura una maggiore apertura. Sembrano delle parole assurde in questo momento dove c'è un confronto. Maggiore apertura è sicuramente più Europa. Petizione Europa per i migranti, la pagina Facebook, oppure il sito internet comitatoeuropamigranti.wordpress.com per conoscere sia il testo sia aderire con le firme. Emiliano, ma la petizione nasce come movimento di opinione, poi qual è il suo percorso ottimale? Nel senso, è un sassolino che muove quali onde poi? Sì. Allora, noi abbiamo aperto subito dopo nel pomeriggio un comitato, perché proprio quello che abbiamo proposto è un'iniziativa di cittadini e chiunque può aderire e sostenere questa iniziativa. Ma esiste proprio la possibilità, cioè una sorta di format, quello della petizione, sì, che tutti i cittadini possono attivare? Esatto, è quello che abbiamo fatto. Si va sul sito del Parlamento europeo, cioè si scrive petizione europea, si trova la forma dove è possibile inviarla. Noi l'abbiamo fatto quel pomeriggio, chiunque può farlo. È un, se non sbaglio, fu introdotta con il trattato di Maastricht nel 92, è uno dei diritti che aspetta ad ogni cittadino, e cittadino può farlo anche con organizzazioni associative in qualsiasi forma, e può contenere delle richieste personali questa petizione, o anche delle denunce importanti di interesse pubblico, privato, cioè è un vero e proprio strumento a disposizione di ogni cittadino per segnalare qualsiasi tipo di problema che esso riscontra sulla società. Un esempio più veloce, ad esempio sulla discarica di Malagrotta a Roma, è stata presentata una petizione che è arrivata addirittura dopo un lungo percorso di un'infrazione europea. Sta camminando adesso la vostra petizione? Beh sì, sta andando bene, senza il sostegno di nessuna media importante, se non fino ad ora con voi. Grazie. E quindi abbiamo sicuramente avuto un buon interesse, ecco, questo sì, sono usciti su comunque anche alcuni giornali online, insomma, speriamo bene nella risposta, che ci sia attenzione sul tavolo. E il tema è attuale, ma ahimè è un tema tragico, però il fatto che ci siano cittadini che decidono di fare qualcosa e scelgono la partecipazione invece che il piangersi addosso, ci sembra importante raccontarlo, perché è stimolo ed è un'iniziativa che vanno assolutamente replicate. Grazie davvero Emiliano Fattello. Grazie, tutti i link relativi alla petizione sulle nostre pagine Facebook e Twitter. Europost-it. Minori non accompagnati. L'Unione Europea cerca progetti per aiutarli. Sono molti in Europa i minori arrivati nell'Unione ma rimasti senza genitori. Molti di loro hanno diritto all'asilo politico o sono vittime di tratta. Per loro l'Unione Europea ha progettato il Piano d'Azione 2010-2014 per individuare buone pratiche per favorire la loro accoglienza, assistenza medica e legale, protezione, integrazione o reintegrazione nel loro paese d'origine, nonché la prevenzione del crearsi situazioni simili. Se siete parte di una ONG, un ente locale, regionale o nazionale, ma anche una università o un centro di ricerca, e avete in mente progetti che possano aiutarli in questi ambiti, potete partecipare al progetto pilota, finanziato dalla Direzione Generale Affari Interni dell'Unione Europea, con 1 milione di euro. I progetti devono essere realizzati in partnership con altri stati dell'Unione Europea e presentati attraverso l'apposito sistema PRIAMOS per la presentazione elettronica delle proposte, entro il 24 ottobre 2013. Per saperne di più e scaricare i bandi, andate sul sito della Direzione Generale Affari Interni, ec.europa.eu/dgs/home-affairs, nella sezione Fondi e cliccate poi su Altri programmi, Progetto pilota minori non accompagnati. Like a star, you can't stop my shine. This class is all mine. Gonna open up their minds. I'm a teacher, I'm a teacher, I'm a teacher. Quella che state ascoltando è una canzone che un giovane insegnante inglese ha messo sul web, una sorta di inno dell'educatore, perché questa è anche la settimana dove l'Italia è stata bocciata, c'è un analfabetismo relativo all'italiano ma anche relativo alla matematica. Questi sono i risultati del nuovo studio ISFOL che è stato svolto sui paesi OCSE e 24 paesi presi in considerazione fra i più industrializzati. Insomma, i dati che sono usciti sono abbastanza scoraggianti e le vogliamo commentare con Marco Montanari del Direttorato Generale Istruzione e Cultura. Si occupa specificatamente delle politiche per l'istruzione in Italia, ha lavorato e sta lavorando all'interpretazione dei dati europei. Buon sabato, Marco. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Siamo stati bocciati tutti? Ma in un certo senso possiamo dire di sì. Ho visto un po' di titoli dei principali quotidiani italiani nei giorni scorsi, dove vediamo che non sappiamo né leggere né contare, siamo un popolo di nuovi analfabeti. Diciamo che passando su un piano un po' più tecnico, questo rapporto si boccia le competenze degli adulti italiani. Competenze alfabetiche e competenze matematiche. Ma esattamente. Siamo una eccezione europea o l'intero quadro europeo è preoccupante? Il quadro europeo è molto diversificato. Abbiamo alcuni paesi che sono al vertice di questa classifica tra i paesi dell'OCSE. E sono in particolare la Finlandia, i Paesi Bassi e la Svezia. Poi se volessimo usare una metafora calcistica, nella zona retrocessione abbiamo Italia, Spagna e forse un po' sorprendentemente anche la Francia. Ho capito. E Marco, come si è svolta questa indagine? Come si misura l'alfabetizzazione di un popolo? È stata misurata scegliendo in ogni paese partecipante un campione rappresentativo della popolazione di età tra i 16 e i 65 anni. Per esempio in Italia questa indagine ha coinvolto circa 4.600 persone che dovrebbero rappresentare un campione della popolazione italiana scelto in modo da rappresentare correttamente le differenze di fascia d'età, livello di istruzione, reddito e condizione lavorativa. A queste persone è stato chiesto di svolgere un test sulle competenze linguistiche, dove intendiamo la capacità di leggere e di scrivere dei testi, e sulle competenze matematiche. Uh-huh. Leggevo, ci sono dati che veramente fanno riflettere. Per esempio, le competenze di un giovane laureato italiano sono simili, cioè quindi non migliori, alle competenze di un ragazzo delle scuole superiori della Finlandia. La colpa quindi è della scuola? Questi risultati confermano anche quelle di altre indagini precedenti dell'OCSE, per esempio l'indagine PISA che misura le competenze dei giovani studenti di 15 anni. Anche lì vediamo che l'Italia è molto indietro rispetto alla maggior parte dei paesi dell'Unione Europea. Diciamo che sicuramente ci sono dei margini di miglioramento importanti nella scuola. Marco, un'ultima domanda, e con tutti questi dati cosa si fa? Nel senso che rimane una triste e grigia fotografia, o da questi dati danno un punto di partenza per politiche europee successive? Come ha detto lei, cercheremo di utilizzare questi dati nella nostra attività intanto di analisi per cercare di capire meglio quali sono le aree che possono richiedere eventualmente degli interventi, e poi con le nostre politiche di supporto, insomma, all'attività di riforma degli Stati membri cercheremo di concentrarci sulle aree appunto che potrebbero essere più problematiche. Un punto di partenza, insomma, ma torneremo sicuramente su questi argomenti. Grazie davvero a Marco Montanari del Direttorato Generale Istruzione e Cultura. Buon sabato, Marco. Grazie a lei, buon sabato a tutti. Adesso ci fermiamo, un momento di pubblicità, poi ancora qua con l'Altra Europa. L'Altra Europa. Ancora buon sabato da Federico Taddia, riapriamo con la grande fuga questa puntata dell'Altra Europa. Vi ricordo che ci trovate sulle piazze virtuali, sui social network, Euronet Plus R24, oppure Federico Taddia su Twitter e su Facebook. La grande fuga perché? Perché vogliamo tornare su un argomento che abbiamo approfondito molte volte, che è quello dei cervelli in fuga. Ne abbiamo conosciuti, abbiamo chiacchierato. Noi siamo anche per la mobilità, pensiamo che sia assolutamente un valore aggiunto per i giovani. Il problema è quando i giovani se ne vanno e non tornano, come racconta tante volte anche Sergio Nava qui a Radio 24 con Giovani Talenti. Euronet Plus questa settimana ha chiesto a tutte le radio coinvolte nella piattaforma di ragionare quanto in un contesto di crisi economica, dove molti laureati, soprattutto provenienti dai paesi del Sud Europa, Spagna, Portogallo, Grecia, ma anche Italia, sono in partenza per il Nord Europa, Germania, Danimarca, Belgio, quanto questo rappresenti un grave problema e abbia fortissime ricadute economiche. Questa riflessione la vogliamo fare con Simona Miglio, che è direttore associato dell'unità politica sociale di coesione alla London School of Economics, ha un dottorato di ricerca in economia politica e da anni studia anche le problematiche legate ai cervelli in fuga. Ha partecipato come capogruppo in una ricerca fatta dall'Aspen Institute sulla fuga dei cervelli all'interno del progetto Interesse Nazionale, che riunisce grandi eccellenze di italiani all'estero. Benvenuta all'Altra Europa, Simona. Buongiorno. Intanto, guarda, prima di entrare in argomento, una curiosità, scusa, ma te lo devo chiedere subito. Leggo nella tua scheda che insegni anche questo corso in comprensione delle cause delle cose? Sì, insegniamo un corso sulla capire la causa delle cose. È fantastico, ma in cosa consiste, scusami? È un corso un po' trasversale che praticamente la London School of Economics ha voluto introdurre sulla base del feedback che abbiamo ricevuto da vari recruiters, ovvero emergeva che i nostri laureati erano eccellenti nella disciplina in cui si laureavano, ma poi peccavano in altri aspetti. E quindi abbiamo voluto introdurre un corso trasversale a tutte le discipline che un po' aiuta gli studenti a familiarizzare sia con problematiche quantitative che qualitative, così un po' da allargare la loro percezione delle problematiche che possono affrontare una volta laureatesi, che vanno un po' al di là dell'expertise per cui studiano. Insomma, è una piccola divagazione, ma è assolutamente interessante. Simona, che cos'è il fenomeno della fuga dei cervelli dal tuo osservatorio? Come lo descrivi e come lo quantifichi? Ma io non lo... Vorrei fare appunto una differenza che si sposa molto con la premessa che avete fatto voi. Per me la fuga dei cervelli è un problema che non necessariamente si verifica in tutti i paesi. Bisogna fare una distinzione tra il cervello in fuga e il cervello in mobilità. Quindi in teoria la fuga dei cervelli non si verifica. Si verifica più che altro una circolazione dei cervelli, ovvero la bellezza dell'Unione Europea è proprio questa, la mobilità del capitale umano. Quindi di per sé il cervello deve muoversi, è anche un bene che si muova. Viene invece classificata come fuga in senso appunto negativo qualora a parità di cervelli che escono non entrano altrettanti cervelli. Certo. E quindi il fenomeno è visto da due punti di vista. Da un lato l'uscita del cervello è la mancata entrata e poi, che è ancora più preoccupante, è anche la qualità del capitale che entra rispetto a quello che esce. E diciamo, quello è il problema fondamentale per l'Italia. Ma ci si sposta solo per cercare lavoro o ci sono anche altre spinte? Ma ci sono degli studi che confermano che a parità di remunerazione economica e a parità di lavoro il cervello altamente qualificato si sposta soprattutto sulla base di aspetti di natura sociale, culturale e istituzionale. Ovvero sceglie il territorio di destinazione non soltanto pensando alla remunerazione economica, ma anche immaginando un contesto sociale, culturale e istituzionale migliore in cui vivere. E prima parlavamo di questa ricerca dove appunto gli italiani sono tra i più analfabeti sia per quanto riguarda l'italiano che per quanto riguarda la matematica. L'Italia però poi produce un altissimo numero di persone qualificate che però non trovano lavoro in Italia, quindi sono costrette ad andare all'estero, e sembrano quasi dati contraddittori, però il risultato è sempre quello, si cerca un futuro altrove. Ma infatti, diciamo, questo è sicuramente un fenomeno preoccupante nel caso italiano, però vale anche la pena soffermarsi sulla base del problema che sta alla radice di tutto ciò, ovvero in molti paesi laddove si produce del personale, lo si forma, lo si fa in costante contatto col settore privato, col settore bancario, col settore in cui poi questo capitale deve essere assorbito. Mentre in Italia in questo momento, a mio avviso, manca proprio un incontro tra domanda e offerta. La domanda di lavoro, l'offerta di lavoro non sono coordinate alla base, non c'è questo incontro tra la formazione e coloro che dovrebbero impiegare il capitale formato. Quindi è plausibile che ci sia un settore dove c'è richiesta di capitale, ma che questo settore non venga preso in considerazione quando si pensa alla formazione. E ci si perde solo a livello economico? No, penso ci si perda anche proprio a livello sociale, non soltanto economico. Certo, economicamente parlando l'Italia rimane indietro per quanto riguarda la ricerca, per quanto riguarda l'innovazione, per quanto riguarda la cultura, però ci si perde anche a livello sociale. Simona, grazie davvero per aver fatto questa fotografia. Su cosa stai lavorando in questo momento? In questo momento sto lavorando sull'impatto della crisi economica sugli aspetti di coesione economica e sociale, quindi una problematica che si aggiunge ad altre problematiche. Certo. Ti consideri un cervello in fuga? Sinceramente no, mi considero un cervello mobile, ecco. Non vedo il mio futuro per sempre in Inghilterra, tengo aperta la possibilità di tornare in Italia, così come spostarmi in altri paesi europei dove posso fare meglio il mio lavoro. Insomma, questo cervello mobile ci piace, è assolutamente un incentivo. Io la vedrei più come cervello mobile che cervello in fuga. Okay. Grazie davvero, buon sabato, Simone, buon lavoro. Grazie. Arrivederci. Europost-it. Rush finale per le borse di studio Leonardo. Siete laureati e specializzati in economia, commercio, marketing, risorse umane, architettura, informatica o turismo? Siete in cerca di un'esperienza di lavoro, magari anche all'estero? L'Associazione Programmi Iniziative Comunitarie di Padova informa che sono a disposizione 81 tirocini Leonardo di formazione linguistico-professionale con il sostegno finanziario della Comunità Europea nell'ambito del programma Lifelong Learning Program, nell'ambito del progetto Step 7, Steps Towards a European Profession. Le borse di studio sono della durata di 14 settimane, da svolgere in Regno Unito, Germania e Spagna. Per partecipare occorre essere già laureati, essere inoccupati o disoccupati e non avere mai usufruito di altre borse Leonardo. Si può candidare anche chi ha più di 30 anni. Le borse di studio coprono viaggio, vitto, alloggio, assicurazione per il periodo di permanenza e corso di lingua. Affrettatevi però, l'ultimo giorno utile per candidarsi è il 18 ottobre. Trovate bando e informazioni su eurotrainingapic.com. Passeggia per un po' senza meta. Dispersi ovunque, state ascoltando una voce. Uno spettatore del vostro viaggio. Quello che state ascoltando ora invece è l'audio di un flash mob che è stato organizzato all'interno del Trans Europa Festival, il festival che è stato inaugurato i primi di ottobre, continuerà fino al 24. Per sapere che cos'è, abbiamo con noi Lorenzo Marsili, che è direttore di European Alternative. Ciao Lorenzo, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao Lorenzo, che cos'è Trans Europa Festival? Festival che abbiamo già frequentato anche nelle passate edizioni, però ci piace ricordarlo. Sì, Trans Europa è un festival un po' particolare, nel senso che è un festival in contemporanea in 13 città europee, da Londra a Bucarest, da Barcellona a Varsavia, ed è un po' la nostra risposta a questa frammentazione dello spazio europeo, questo ritorno di un certo nazionalismo all'interno dell'Unione Europea, e noi invece dimostriamo che giovani europei, in particolare la nuova generazione cresciuta con l'Erasmus, considera lo spazio continentale un unico spazio politico in cui agire e anche in cui mettere in scena un festival che unisce queste città con una unica programmazione e un'unica proposta politica che poi viene svelata attraverso le iniziative artistiche e culturali del festival. Un festival ricchissimo di iniziative, ci puoi così mettere qualche asterisco, ci vuoi segnalare qualche evento particolare? Sì, come si ricordava, il festival ha aperto con un flash mob transnazionale preparato da un collettivo di artisti tedesco, il collettivo Ligna. E lo scorso fine settimana, in contemporanea, in 13 piazze di 13 città europee, ci sono stati questi flash mob che hanno portato i nostri attivisti, i partecipanti del festival, il pubblico che passava per la strada, a mettere in atto una coreografia veramente transnazionale. In contemporanea, in tutte queste città, gli stessi movimenti, gli stessi gesti e la stessa narrazione dietro il flash mob, che è una narrazione che riprende quelli che sono stati i moti di protesta di Piazza Tahrir prima, poi di Puerta del Sole e infine di Gezi Park a Istanbul. E il festival prosegue fino al 24 di ottobre. Il programma è veramente ricchissimo, poi in 13 città, quindi è difficile chiaramente spiegarlo tutto. Quello che forse vale la pena menzionare sono alcuni assi tematici che informano quest'anno le attività del festival. Uno è senz'altro il lavoro che già nella scorsa edizione abbiamo iniziato sulla precarietà giovanile. Se lo scorso anno l'enfasi era posta nell'analizzare le diverse situazioni in diversi ambiti europei per quanto riguarda la precarietà giovanile, quest'anno cerchiamo di trovare delle soluzioni creative. Quindi andiamo in giro per le città europee, in spazi pubblici, andando a incontrare da scuole a collettivi a movimenti sociali, per capire quali strategie di sopravvivenza, potremmo dire, vengono messe in atto dai giovani precari e dai giovani senza lavoro, anche a livello di produttività artistica, culturale, il fai da te, il co-working. E quindi ci saranno una grande manifestazione che attraverserà tutte le città del festival per mettere in scena ciò che abbiamo trovato. Perfetto, l'Europa viva, sì. L'Europa da raccontare. Transeuropafestival.eu il sito, da Londra, Sofia, Belgrado, Barcellona, Parigi, Lubiana, insomma 13 città in movimento. Grazie davvero Lorenzo, buon festival. Grazie a voi. Ci fermiamo, le informazioni per chi sta viaggiando poi ancora qua con l'Altra Europa. L'Altra Europa. Custom on the building sites, the coiling wires, the shots collected, called out in the wake of a letter rehearsed inside the family gathering, mirrored beams. stretch. The wandering association murmurs in the dark confessional. And rides along the road ephemeral. Qual è la qualità della vita nelle città europee? Sono stati presentati dei dati nella 11ª edizione degli Open Days, la settimana europea delle regioni e delle città che si è tenuta da poco a Bruxelles. Oltre 5.500 rappresentanti di regioni e città di tutta Europa si sono scambiati opinioni, hanno condiviso strategie nel quadro della politica regionale dell'Unione Europea e appunto sono stati presentati i dati di questo Eurobarometro Flash sulla qualità della vita. È stato condotto su 79 città degli stati membri e i risultati sono che la città dove la qualità della vita è maggiore è Aalborg, siamo in Danimarca, e poi c'è Amburgo, Zurigo, Oslo, Copenaghen, fino con percentuali altissime. Aalborg, il 99% dei cittadini è felice di vivere lì. E poi c'è anche la coda, la città dove si vive peggio è Atene, e poi chiudono la classifica due città italiane che sono Napoli e Palermo. Volevamo toccare i due estremi con due testimonianze, quindi andiamo ad Atene. Con noi c'è Maria Petinakis. Ciao Maria, ben ritrovata. Ciao. Ciao, buongiorno. Ricordiamo, architetta è una delle ideatrici dei tour alternativi per Atene. E poi c'è Luigi D'Ambrosio, insegnante di origine tra l'altro napoletana, che vive appunto a Aalborg. Ciao Luigi. Ciao Federico. Ciao. Un napoletano a Aalborg, anche lì due estremi. Questa... Sì. Cosa significa? Sono geografici. Cosa significa vivere nella città con appunto la città con la qualità della vita più alta d'Europa? Da cosa si misura questa qualità della vita e soprattutto la si percepisce nella quotidianità? Sì, diciamo che si nota, si percepisce nella quotidianità perché i servizi sono molto alti qui. Infatti io direi che si tratta forse di una qualità dei servizi ad essere molto molto alta, più che qualità della vita. Uh-huh. Perché è molto facile muoversi qui, è facile avere bambini, c'è la bambinaia comunale, quindi sai, sono molti servizi che ti aiutano come genitore ma anche come studente, perché puoi studiare all'università e percepire lo stipendio statale, quindi sai, è molto facile ecco vivere, quindi forse è come classifica della facilità della vita. Direi che ad Aalborg siamo a posizioni molto molto alte. La qualità della vita secondo me sai, diventa più un discorso soggettivo. Quindi come quella dei servizi sì, sicuramente si notano in giro, se per esempio prendi i mezzi di trasporto pubblico come esempio, sono efficienti, sono puntuali, anche la sanità. Beh, certo, guarda, anche gli stessi criteri di questa ricerca riguardavano appunto sanità pubblica, educazione, possibilità, sì, di trovare lavoro, trasporto, quindi questi servizi che tu anche stai elencando. Però sento che nascondi qualche ombra, nel senso che la facilità della vita non è la felicità della vita. Cosa ti manca lì a Aalborg? Ti dirò che non mi manca tanto, perché sì, sono contento, sono felice di essere qui, però vorrei dire che la qualità della vita si misura anche prendendo in considerazione i rapporti umani, le relazioni umane, quindi credo che in Danimarca, ma nel nord Europa in generale, i rapporti umani, ecco, oserei dire che sono un po' carenti, nel senso che sai, la vita è molto stressante, si lavora dal lunedì al venerdì, quindi si svolge una vita abbastanza riservata, ricca di impegni, e non c'è molto spazio, secondo me, secondo la mia esperienza, per curare i rapporti umani. Tutto viene comunque strutturato, pianificato, anche la vita privata, appunto, la vita sociale viene pianificata, quindi non c'è molto spazio per la spontaneità. E ti dirò anche che in Danimarca vedono con grande ammirazione la spontaneità degli italiani, la capacità di potersi, sai, di poter improvvisare, di potersi godere la giornata, la vita. Quindi loro guardano con ammirazione il nostro modo di vivere in Italia. Insomma, quindi tu sei un anche buon... questo mi fa capire. Certo, sei un buon connubio, credo, tra facilità e felicità. Andiamo ad Atene invece. Maria, la felicità non sembra proprio uno degli elementi, e lo sappiamo bene perché vi stiamo, siamo con voi ormai da anni, questa crisi che ha veramente piegato, che vi ha piegato, ma voi tenete botta, questo ci hai detto l'altra volta e questo lo vogliamo ricordare, però siete in coda a questa percezione della felicità, anche tu, è una percezione che condividi. Atene forse non è la città la più facile da vivere, però per me non la lascerei per nessun'altra città, e ho vissuto anche in altre città europee molto più organizzate. C'è un senso di libertà che hai qua che non vivi in altre città europee. Mm-hmm. E poi sì, i servizi sono messi molto male in questo momento, si stanno sempre peggiorando, però appunto le relazioni umane si stanno sforzando, cioè più... La crisi ha attivato probabilmente altre competenze. Ci parlavi della creatività la volta scorsa quando ci siamo sentiti per parlare del vostro progetto di tour alternativi, giusto? Sì, sì, infatti tutti stanno provando di organizzarsi in maniera diversa, visto che non ci sono più lavori adesso, i giovani provano di fare nuove cose, più creative, di lasciarsi nei loro propri dreams. Okay. E provare altre cose, sì. Mm-hmm. Poi per tutti gli ateniesi la città è una città grigia, però abbiamo tanti artisti adesso che mettono street art un po' dappertutto e danno colori. E poi succedono tantissime cose, aprono sempre nuovi bar, locali, cioè quando esci fuori di notte non senti proprio la crisi. Insomma, questa è una bella immagine, finalmente un'immagine che sembra quasi una boccata d'ossigeno, che non vuol dire nascondere la realtà, però vuol dire che c'è un Atene che comunque ci sta provando, che si sta muovendo. Grazie davvero Maria Pettinakis, architetta, ciao, ci sentiremo presto comunque ancora qui all'Altra Europa. Un grazie anche a Luigi D'Ambroso. Luigi, sei insegnante dove? Insegno all'University College del Nord Jutland, qui in Danimarca, e insegno anche all'Università di Aalborg. Che cosa? Qui in Danimarca. Insegno nel campo del marketing e della comunicazione aziendale. Ok, quindi insomma un campo freddo, però che tu da bravo napoletano riuscirai a scaldare, giusto? Certamente, certamente. Okay. Grazie davvero per la tua testimonianza, ciao. Prego, prego, ciao. E questo grazie va a tutta la squadra dell'Altra Europa che con me hanno scritto la puntata, Margherita Aina, oggi è Pietro Lacorte, oggi alla parte tecnica, radio24.it se volete riascoltare la puntata, oppure ci trovate su Facebook e su Twitter, e sugli account ufficiali del programma, oppure sui miei personali. L'appuntamento è a sabato prossimo, ancora ciao da Federico Taddia. L'Altra Europa, in collaborazione con Euronet Plus.